danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa. Voglio vederti danzare come derviscia e turner che girano sulle spine dorsali al suono dei cavigliere e dei catacali. E gira tutti intorno alla stanza mentre si danza, danza. E gira tutti intorno alla stanza mentre si danza. Trasmette musiche balcaniche mentre danzano i bulgari a piedi nudi su braccieri ardenti. Nell'Irlanda del Nord, nelle ballere estive, coppie d'anziani che ballano a ritmi di sette ottavi. Mentre si danza, danza. E gira tutto intorno alla stanza mentre si danza. Nei ritmi ossessivi la chiave dei riti tribali, regni di sciamani e suonatori zingari rideni. Nella bassa padana, nelle ballere estive, coppie d'anziani che ballano, viechi valzer vienesi.